Non parlò più della rivoluzione a Peonia dopo quella notte. Ella si era come ritirata da lui ed evitava di comparire nella sua camera. Nulla era mutato, ma quegli incontri ella li evitava. Le coperte imbottite erano sprimacciate, il tè era servito caldo, nella solita scatola c'era il solito rifornimento di dolci che Aiwan prediligeva, fiori freschi erano collocati sulla finestra e sulla tavola. Ma a tutte quelle operazioni Peonia provvedeva prima che egli tornasse. Una volta sola lo incontrò per le scale e lo sfiorò. Egli risentì nelle nari il noto profumo di gelsomino. «Sogni ancora?» gli domandò Peonia col suo sottile ombrato sorriso. «Quando ti sveglierai?» mormorò. E sparì. Non che egli si pentisse di averle parlato, ella aveva pure il diritto di sapere che giorni migliori si approssimavano, anche se ad essi non credeva. Comunque Peonia non lo avrebbe mai tradito, egli sapeva che affidata a lei la sua vita era sicura. Il tempo del resto stringeva, si era già alla metà del secondo mese dell'anno e quantunque la massa operaia ancora non lo sapesse, entro 15 giorni avrebbe dovuto venire proclamato lo sciopero. Nessuno sapeva come esso si sarebbe esteso, nell'ignoranza del numero esatto dei rivoluzionari che vivevano in città. Ma nel gruppo di Aiwan, i vari compagni si alzarono a turno per enumerare in linguaggio convenzionale, così da non farsi intendere qualora i muri l'avessero udito, l'opera svolta. Una ragazza, ad esempio, disse: «Delle donne delle quali fu incaricata 63, preparate 18», dove il numero 18 stava a significare che altrettante donne erano state addestrate all'uso della rivoltella della quale erano state fornite. 2 giorni prima dello sciopero tennero l'ultima seduta. Enlan disse: «Non ci riuniremo più. La polizia è diventata così sospettosa che non è più consigliabile riunirci. Conosciamo quel che dobbiamo fare ora per ora. Se accadrà che qualcuno di voi sentirà il bisogno di parlarmi, quel qualcuno tracci un sole rotondo su un pezzo di carta e me lo metta in mano. Io fisserò l'ora e il luogo dell'appuntamento. Diversamente, state attenti a non incontrarvi né date alcun segno reciproco di intesa fino al giorno dopo lo scoppio della rivoluzione. Ciascuno al suo posto. Il giorno stabilito tutto scatterà secondo il previsto, ma fino ad allora ciascuno solo e per proprio conto». Già, però il giorno seguente, durante la lezione di inglese, Aiwan, che sedeva al fianco di Enlan, si vide consegnare dal compagno un foglio di carta col segno del sole. Sotto c'era segnata un'ora. Aiwan si recò alla celletta di Enlan, il compagno gli aprì l'uscio e gli disse subito: «Ho più paura di te che di tutti gli altri. Desidero ammonirti in modo particolare e metterti in guardia contro le indiscrezioni in casa tua. Questi ultimi giorni sono fra tutti i più pericolosi e tuo padre può molto. Dalla segretezza dipendono tutte le nostre vite». «Io?» domandò impetuosamente Aiwan. «Credi che io?» Enlan disse: «Tu sei così candido. Parli senza accorgertene, non sai nascondere nulla». Aiwan stava per protestare, ma si ricordò in buon punto che il rilievo di Enlan era giustificato. Non aveva parlato con Peonia. Guardò Enlan a bocca aperta e quello capì al volo. «Hai già parlato», disse. «Lo vedo dalla tua espressione. Vieni fuori con me, discorreremo meglio». Uscirono nella via. E mentre fingevano di occuparsi dell'acquisto di arachidi e di un saltimbanco circondato da ragazzi, Enlan interrogò e Aiwan rispose, confessando tutto quello che aveva raccontato a Peonia. Mai aveva visto Enlan così sdegnato. «A una donna! A una schiava!» borbottava con voce furiosa e una luce di belva negli occhi. «Dove mai si è visto uno sciocco del tuo calibro?» «Ma ti ripeto che tu non conosci Peonia», si affannava a dire Aiwan. «È come una sorella». Esitò e poi, balbettando: Ma mi ama Peonia». «Non è tua sorella», disse Enlan, «e se ti ama, come dici, la cosa è tanto più grave. Vorrà vendicarsi perché tu non corrispondi al suo amore, magari a costo di farti perdere la vita». «No, no, Peonia non è di questa stoffa», protestò Aiwan. Per un poco Enlan non disse nulla, poi sospirò. «Beh, cosa fatta a capo ha?» Tacque ancora e finalmente soggiunse: «Non sono tranquillo, rispondo io di tutto. Mandami la ragazza, ci incontreremo, non importa dove. Ho bisogno di vederla e di imporle il silenzio, magari con la minaccia. Non saprei, balbettò Aiwan. Non credo che lei. Credo che si vergognerebbe di uscire ad incontrarti. Come? Lei? Una schiava? Domandò Enlan con sarcasmo. Ma non lo è affatto, disse Aiwan. Non l'abbiamo mai trattata come una schiava noi. Comunque diglielo, insistette Enlan, e poi. Ricordati che ne va di più della tua vita, potremmo essere presi tutti e uccisi. Non passava infatti giorno senza che la polizia non prendesse e passasse per le armi i sospetti di mene rivoluzionarie. I nomi non erano pubblicati e la gente non ne sapeva nulla, ma dalle scuole e dalle case giovani e giovinette erano portati via dalla polizia e dalla soldataglia che veniva a reclamarli. Nessuno rivedeva più gli arrestati e le arrestate, né si avevano altre notizie di loro. Glielo dirò, promise Aiwan. Ma Peonia quella notte non si fece vedere e quando la mandò a chiamare fece rispondere dal servo che la nonna aveva bisogno di lei. Il giorno seguente fu dichiarato lo sciopero generale. Aiwan era a casa che faceva colazione quando udì suo padre prorompere alla lettura del giornale. Che? I setifici chiusi? Ah, mancava ancora questa. Aiwan depose i suoi bastoncini. Suo padre continuò la lettura ad alta voce, furioso, aggrottando la fronte. Negli stabilimenti TA 300 operai scioperano, in quelli Ling 425, negli stabilimenti Sung Ren. Buttò via sdegnato il giornale e commentò fremente. E abbiamo del denaro impiegato in tutti quanti. Che cosa pensa il governo per permettere una cosa simile? Sono gli studenti, sono loro che hanno sobillato la massa. Il governo, commentò il nonno, non ne uccide abbastanza. Che cos'è questo comunismo? Domandò la madre di Aiwan. Non ne ho mai sentito parlare, è forse una specie di religione straniera? Peonia, che entrava in quel momento con una terrina d'uova nel brodo bollente, vacillò e ne versò un poco. Sbadatona, la rimproverò la nonna. Ogni giorno più trascurata mi diventi. Aiwan incontrò lo sguardo della ragazza e vi lesse un'espressione di terrorizzata intelligenza e le sorrise. Doveva comunicarle l'ambasciata di Enlan e non vedeva l'ora che gli si offrisse il destro per parlarle a quattro occhi. Suo padre intanto si era alzato di tavola senza finire di mangiare. «Devo correre in ufficio!» esclamò. «Chissà che cosa può succedere! C'è caso che trovi tutto all'aria! Comunque dobbiamo stimolare il governo!» Io per me rifiuterò il nuovo prestito chiesto dal Ministero dell'Educazione, a meno che non si cerchi di aggiogare meglio gli studenti. Ancora un po' di tè? Domandò Peoni avvicinandoglisi con la teiera in mano. Il banchiere gridò senza badarle, furiosamente. Ah, aspettate che arrivi Chiang Kai-shek. Aiwan alzò gli occhi. Peonia faceva il giro versando il tè. Che cosa volete dire? Gli domandò Aiwan. Suo padre rise sarcastico, tracannò il suo tè, spinse indietro la sedia e uscì. Come se potessero fare qualcosa contro Chang, pensò ardentemente Aiwan. Chang non aveva paura di nessuno e gli si era aperto vittoriosamente la strada verso il sud, forte del suo potere e della sua integrità, come se gli importassero i banchieri, pensò ancora orgogliosamente. Poi si ricordò di nuovo di Peonia, ma Peonia era uscita e per quanto la cercasse per casa, non gli venne fatto di ritrovarla. Finalmente la udì che parlava in cucina, cacciò dentro la testa e la vide curva su di una cesta piena di pesce portata allora allora da un venditore ambulante. Peonia! Chiamò. Peonia alzò gli occhi. Dov'è il mio berretto scolastico? Non lo aveva scovato in nessun luogo e non aveva del resto fatto sforzi particolari per trovarlo, desideroso di un pretesto per poterle parlare. Ma lei tornò a guardare il pesce. Nel terzo beccatello del tuo armadio, rispose. Egli non seppe dire altro. Tornò a scuola con le pive nel sacco e nell'aula d'inglese scosse leggermente il capo con cenno d'intesa verso Enlan. Lo sciopero, Aiwan lo sapeva, avrebbe dovuto durare 21 giorni e il 21esimo sarebbe stato quello fatidico della rivoluzione. La città continuava a vivere in apparenza la sua solita vita, ma in realtà tutto era diverso. I visi erano calmi, tutti attendevano come di consueto alle loro faccende, ma lo sciopero si estese ugualmente alle redazioni dei giornali, ai grandi magazzini, alle ditte commerciali. Le La classe lavoratrice era paga del denaro che le affluiva da sconosciuta provenienza e per la prima volta gli operai potevano frequentare di giorno i luoghi di divertimento, estasiandosi alle meraviglie degli animali ammaestrati o dei film stranieri e di tante altre cose che conoscevano soltanto per sentito dire. Nottetempo oziavano attorno alle case da tè o nei locali dove si giocava. Aiwan riusciva a stento a mantenere unito il suo drappello, mentre in quelle giornate, infatti, egli era così teso e vibrante da non riuscire quasi a dormire, gli operai della sua brigata erano come ragazzi in vacanza. Per tutto il giorno restavano senza far nulla, ma di notte era un affare serio adunarli. Arrivavano alla spicciolata e se domandava notizie degli assenti, gli interrogati ridevano e accennavano alla città. Siamo stati in giro a vedere quello che non avevamo mai visto prima, diceva uno. In quanto a me, diceva un altro, non mi importerà nulla se non mi sarà dato di star meglio di quanto già stia ora. Volete sapere che cosa ho visto oggi? Tre scimmie vestite da uomo. Ho riso fino a sentirmi lo stomaco uno straccio. Impossibile farli stare attenti a quanto egli, Aiwan, diceva loro. Non gli restava perciò che tornarsene a casa e aspettare gli eventi. Si sentiva impotente coi suoi operai e già cominciava a fargliesi strada nell'animo la paura che essi, quando fosse suonata l'ora, se la sarebbero squagliata. Un giorno si indusse a fare un segno a Enlane. Enlane gli diede convegno nello spiazzo erboso del campo sportivo della scuola, nell'ora in cui quasi tutti gli studenti erano in classe. Non so che cosa abbiano quelli del mio drappello, gli disse. Da quando non lavorano sono come dei ragazzacci disutili. E raccontò come avessero quasi dimenticato la rivoluzione. Enlan si prese gioco di lui. Ma se te l'ho detto, che sei un idealista, rispose. Non sai niente tu, Aiwan. Immagini forse che gente che non ha mai fatto altro che lavorare da quando è nata non si butti a giocare non appena può? Lascia in pace i tuoi operai. Quel giorno non saranno impartiti ordini. La cosa verrà come una gran tempesta. Nessuno può dire quali proporzioni prenderà la distruzione che avrà luogo. Sarà soltanto dopo che noi cominceremo a pensare a ristabilire l'ordine. Soggiunse a voce più bassa. Che cosa ne è di quella ragazza? Una parola sola in queste giornate cruciali e siamo tutti perduti. Non ho ancora potuto, cominciò Iwan. Cerca di potere, cerca, gli disse imperiosamente Enlan. Che diritto hai di mettere a repentaglio le nostre vite? E proseguì la sua strada, lasciandolo solo. Di nuovo ad Aiwan non rimase altra alternativa che l'attesa. Nell'aria era l'irrequietudine della primavera. Attendere era più che mai arduo. Entrando in casa si sentì subito chiamare dalla nonna. Egli obbedì alla chiamata con la solita aria assente che prendeva in quelle occasioni. Che cosa mi dite, nonna? Domandò come di consueto. Dove sei stato? La voce della vecchia era sottile, quella di sempre. Nulla era mutato nella stanza e tuttavia ad Aiwan tutto sembrò inconsistente, come un sogno dal quale stesse per svegliarsi. A scuola, rispose. La nonna tossì e poi cominciò a lagnarsi. Pareva che egli non avesse parlato. Oh, in questi giorni il dolore mi si accentua nelle articolazioni, disse. Non posso più camminare, ma nessuno ci bada. A che serve avere dei figli e dei nipoti? A voi non importa nulla che io viva o che muoia. Aiwan pensò. Enlan le riderebbe sulla faccia e le direbbe giusto, a noi non importa proprio nulla. Ma a lui mancava la dura franchezza dell'amico, perciò disse con dolcezza: sì, che ci importa, nonna. Ella lo guardò fisso, poi stese la mano. Fammi sentire la mano, Aiwan. Per lui era una cosa odiosa, ma vi si assoggettò ancora una volta. La nonna gli prese la mano fra le sue, due vecchi artigli incartapecoriti. Che mano calda e giovane, mormorò. Il contatto riusciva insopportabile ad Aiwan e tuttavia sentì, con la sensibilità fervida che gli era abituale, che cosa doveva essere la vecchiaia. Quel vivere deboli e soli, quel sentire il proprio corpo ogni giorno più freddo e ansioso di aggrapparsi a qualcuno, a qualcuno che fosse caldo, giovane. Non gli pareva vero di potersi staccare dalla nonna, ma non ardiva farlo. Non vuoi che io muoia? Dimmi, mormorò la vecchia. Ma no, rispose Iwan. Ma sapeva che non gli importava niente che ella morisse. Tutti i vecchi dovevano morire per far luogo ai giovani, e la cosa gli pareva giusta. Ritirò la mano. Devo andare, nonna, devo studiare, disse con la solita formula. È insopportabile l'odore in quella stanza chiusa alla primavera. Ma quando si volse e corse alla porta e l'ebbe aperta, si imbatté fuori in Peonia che arrivava con una zuppiera per la nonna. In quel punto si ricordò. Peonia, le disse, vieni in camera mia stasera, ho qualcosa da dirti. Ella lo guardò, fece cenno di aver capito e proseguì per la sua strada. Egli le disse, naturalmente so che ti rifiuterai di uscire a incontrarlo. Peonia era curva sul suo letto, intenta a spiegare con mano svelta le coperte, estrasse un panno di seta da un cassetto e cominciò a spolverare la tavola. Gli hai detto che non sarei andata? Domandò senza interrompere il suo lavoro. Sì? Rispose Aiwan. Era seduto sulla sua poltrona di fabbricazione straniera. Nella casa solo i letti erano cinesi, e questo soltanto perché il nonno diceva che affondato fra molle e piumini, come facevano gli stranieri, non gli riusciva di dormire. A lui piacevano letti solidi sotto il corpo e un cuscino di legno sotto la testa. Non ripeterei a nessuno quello che tu mi hai detto, mormorò Peonia. Poi, dopo una pausa, ma Elan, vorrei vederlo. Aiwan la guardò stupito. Ella aveva gli angoli della bocca contratti e negli occhi un'espressione piena di malizia. Perché? Le domandò lui. Oh, perché? Disse ella, passando agilmente la pezzuola sui libri di Aiwan. Perché, davvero? Forse, vedi, è il desiderio di vedere un po' con i miei occhi questa rivoluzione di cui mi hai parlato, oppure è nient'altro che il desiderio di vedere qualche cosa di nuovo. In questa casa non accade mai niente. Aiwan si sentì stranamente confuso. Peonia era una ragazza della sua famiglia e non le si addiceva uscire per incontrarsi con uno sconosciuto. Era contro la tradizione. Ma non era proprio contro quella tradizione che lui e i suoi compagni combattevano? Per un attimo dubitò di sé. Quando davvero la rivoluzione si sarebbe abbattuta su quella casa dei suoi, avrebbe egli avuto abbastanza forza per non levare il braccio? Scacciò quel pensiero e disse seccamente: Domani dirò a Elan che mi sono sbagliato, gli chiederò che mi fissi l'ora e il luogo dell'appuntamento. Perché non potremo incontrarci qui? Domandò Peonia. Dopotutto, Elan è un tuo compagno di scuola e non vedo perché non dovrei servirgli il tè. Non è la mia incombenza. Egli non rispose. Elan, in casa sua, mai gli era passato per la mente di portare a casa compagni. Una volta sola Peng Liu era arrivato fino al portone d'ingresso, ma egli non aveva voluto che lo varcasse e da quel giorno, è vero, Peng Liu non gli aveva dimostrato l'amicizia di una volta e si erano incontrati di rado. Singolare tipo Peng Liu. In lui c'era qualcosa di equivoco, tutti i compagni lo sentivano. E Lan, come si dice, gliele dava corte, ma nessuno riusciva ad allontanarlo dal gruppo. Così Peng Liu, anche se evitato da tutti, era rimasto. Aiwan rimuginava pensieri vaghi. Perché un povero poteva avere un figlio gretto e meschino come Peng Liu? E perché un altro povero poteva invece generare un figlio intrepido e generoso come Lan? Esisteva però anche la bassezza di Aiko, che era figlio di un ricco. A proposito di Aiko, era arrivata una sua lettera nella quale, adducendo la sua incompatibilità col mare, domandava il permesso di rimanere a Bombay dove era sbarcato, ma il padre gli aveva subito telegrafato. Procedi per la Germania. I fondi sono stati colà spediti. E così Aiko aveva continuato il viaggio verso i fondi. Quando Aiwan evocava la miseria morale di Peng Liu, subito accanto ad essa sorgeva quella di Aiko. Peonia disse: Non mi hai mai detto se questo Enlan è un bel ragazzo? Ah, non saprei, disse seccamente Aiwan. Ma pensò come sono stato sciocco a dirle ogni cosa. Vedrò un po' io quando lo conoscerò, soggiunse Peonia e uscì, canticchiando in sordina, mentre Iwan si ripeteva fra sé: Non pensa affatto alla rivoluzione, Peonia. Più che mai si pentì di essersi confidato con lei, ma forse era quell'interminabile attesa che gli faceva vedere ogni cosa con occhio pessimistico. Ciò nonostante, il giorno seguente ebbe cura di approfittare di un momento di sosta in classe per ripetere ad Enlan quello che aveva detto Peonia. Enlan ascoltò senza smettere di scrivere sul suo quaderno come se non udisse. «Almeno non è una stupida», commentò. Poi sorrise. «Non ho mai visto l'interno di una casa di ricchi. Dopo la rivoluzione di case simili non ce ne saranno più». E continuò a scrivere. «E poi sarò davanti al tuo portone alle 4. Come dice lei, non c'è niente di straordinario nel fatto che si vada a far visita a un compagno di scuola. Mica male la battuta per essere uscita dalle labbra di una schiava». Chiuse il quaderno. «Ho finito», disse, e uscì nell'atrio. Aiwan passò una brutta giornata. Si sentiva stranamente angustiato. I vivi occhi di Enlan guardavano dappertutto con calma attenzione. Aveva indossato una nuova divisa da studente, s'era lisciati i capelli e s'era infilato nel taschino un fazzoletto di cotone. La divisa, un po' stretta, gli lasciava nudi i polsi robusti. Sul petto, due bottoni che non s'abbottonavano mostravano la sottostante camicia azzurra, ma anche la camicia era pulita. Quando ebbe varcato la soglia della casa di Aiwan, si fermò davanti a uno spesso tappeto rosso. «Devo camminarci sopra?» domandò. Aiwan rise. «È assurdo, ma puoi camminarci sopra», rispose. Il pensiero di quello che Enlan avrebbe potuto pensare delle cose che avrebbe visto in casa lo rendeva nervoso. «Se avessi quel tappeto lì», disse Enlan, «lo userei come coperta». Ciò nonostante ci camminò sopra. Quella mattina Aiwan aveva detto a Peonia: «Se lo porto oggi dovrei fare in modo che la nonna non mi chiami nella sua stanza». Peonia era stata brava perché dalla camera della nonna non giunse voce alcuna. La vecchia dormiva certamente sotto l'effetto dell'oppio. Aiwan sentiva l'odore nelle nari e Lan annusò l'aria. «Questo stesso odore», osservò bonariamente, «lo sentivo sempre nel mio paese natio». «Anche là fumavano l'oppio?» domandò sorpreso Aiwan, il quale aveva sempre creduto che i contadini vendessero l'oppio, ma non lo fumassero. «Non ti ho detto forse che ricchi e poveri sono tutti uguali?» disse Enlan. Ora salivano le scale. Aiwan aveva ancora raccomandato a Peonia: «Se lo porto a casa oggi, fai in modo che mi sia risparmiato di andare a far visita al nonno e ai genitori». Nessuno chiamò e poté perciò condurre senz'altro Enlan nella sua camera. «Eccoci arrivati», disse chiudendo la porta. «Qui saremo liberi. Parla pure liberamente, Lan. I servi qui non vengono se non chiamati e Peonia arriverà fra poco col tè». Parlava in fretta, nervosamente, per il disagio che provava alla presenza di Lan in casa propria. Aveva vergogna di abitare in una casa così ricca. Lan non rispose. In piedi accanto all'uscio si guardava attorno. «Questo è il luogo dal quale vieni ogni giorno?» esclamò. Aiwan non resse alla vista di quell'espressione stupefatta. «Beh, ci sono abituato», balbettò, «non ci penso neppure». «Tutta la casa di mio padre potrebbe stare in questa tua stanza», osservò Enlan. Poi, avventurandosi sul tappeto, «non mi abituerei mai a considerare naturale camminare così su questa roba». Guardò il pesante rettangolo del tappeto azzurro e granata che aveva sotto i piedi e domandò quanto costava. «Ma non lo so», borbottò Aiwan. «Non l'ho comprato io, è sempre stato qui». Si voltò e si tolse il soprabito e il cappello. Enlan si guardava sempre attorno con tanto d'occhi. «Quello è il tuo letto?» «Sì». «Non ho mai visto un letto simile», mormorò Enlan. «Mai visto cose come queste che hai tu? Tutte quelle sete, a che servono?» «Sono tende», disse asciutto Aiwan, poi scattò. «Non ci posso far nulla, sono nato in questa casa, non so altro». Enlan sedette su di una sedia e si posò le mani sulle ginocchia. «Non te ne faccio mica una colpa», disse lentamente. «Mi domando piuttosto se io fossi nato qui, sarei mai andato a ingrossare i ranghi di coloro che vogliono la rivoluzione? Non lo so, non riesco ad immaginare vita diversa dalla mia. Una vita di amaro, strenuo lavoro e di scarso cibo». Guardò Aiwan e poi: «Aiwan, la stima che ho per te aumenta». «Oh, non è il caso», disse sconcertato Aiwan. «Gli è che, sai, a tutto questo ho fatto l'abitudine, mentre la tua vita mi pare molto più interessante». «Tu hai avuto nascendo quello per cui ci battiamo», disse Lan. «E allora perché ti batti?» Iwan non ci aveva mai pensato. Proprio, egli aveva tutto? Perché veramente si batteva? Tutto hai, ripeteva Inlan, tutto. Non mi sento a mio agio, disse Iwan. Non so ben dirti come e che cosa sento. Quando sono col nostro gruppo vorrei poterlo portare qui in massa, ma temo che non sarebbe luogo questo che andrebbe a Genio e compagni. A te piace? Si guardarono attorno. Per la prima volta Iwan vide nella sua camera lo specchio di un tenore di vita, non un luogo di riposo e di lavoro. Non so, disse lentamente Lan, è bello, ma non saprei bene come questa cosa morbida, sentirmela così eternamente sotto i piedi, non mi pare giusto. Ma poi vedi, io non ci sono nato in un luogo come questo. Vorresti esserci nato? Insistette Iwan. E Lan tacque. Poi scuotendo il capo, no, rispose con fermezza. No, sono contento d'essere nato dove la sorte ha voluto che nascessi. Che cosa farei mai qui io? A me piace togliermi la giacca e sputare sul pavimento. Iwan ebbe come un'impressione, come se gli sbattessero una porta in faccia. Gli parve d'essere improvvisamente tagliato fuori da Enlan e da tutto il mondo che gli rappresentava, come un bambino era, che si senta chiuso in un giardino solo, mentre fuori nella via polverosa sciami d'altri ragazzi fanno lietamente chiasso. Prima però che avesse potuto aprir bocca, la porta si aprì, lasciando il passo a Peonia con un vassoio pieno di tazze fumanti.